Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Quando si parla di Made in Italy, non si può fare a meno di pensare al cibo e al connubio fra gusto e salute tipico della dieta mediterranea che tutto il mondo ci invidia. Frutta, formaggi, salumi, vino. Ogni anno più di 1 miliardo di persone mettono sulla propria tavola un prodotto agroalimentare italiano. Tutto questo è possibile grazie ai trasporti e alla logistica, che in questo settore seguono una normativa molto rigida e con specifiche procedure di conservazione durante tutto il percorso, proprio per garantire il mantenimento delle peculiarità degli alimenti. La logistica del cibo presenta però molte criticità che possono incidere anche sul costo finale dei prodotti. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. E come avete ascoltato anche dalla nostra scheda iniziale, l'agroalimentare Made in Italy nel mondo vale oggi oltre 38 miliardi di euro. E questo infatti il valore nel 2016, secondo i dati Istat, delle esportazioni di prodotti alimentari e bevande dall'Italia verso il resto del mondo, in crescita del 3,5% rispetto all'anno precedente. Ogni anno, pensate, circa 1,2 miliardi di persone in tutto il mondo acquistano un prodotto dell'agroalimentare italiano e di questi 750 milioni sono consumatori fidelizzati. 2/3 delle esportazioni italiane interessano i paesi europei, la maggior parte dei prodotti viene trasferito via gomma, ecco perché la logistica dei prodotti agroalimentari assume un'importanza così strategica. Ne parliamo oggi in compagnia di Giorgio Mercuri, che è il presidente di Fedagri e dell'Alleanza delle Cooperative Agroalimentari. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi. Buon pomeriggio a voi. Non a caso abbiamo scelto la cooperazione alimentare perché con le sue circa 5.000 imprese attive il mondo della cooperazione genera circa il 25% del fatturato complessivo dell'alimentare italiano, quindi è un osservatorio sicuramente privilegiato. Innanzitutto un commento a questo dato: crescono le esportazioni di prodotti agroalimentari, c'è voglia quindi di Made in Italy nel mondo? Sì, c'è sempre più voglia di Made in Italy nel mondo, più apprezzamento dei prodotti a denominazione d'origine. Noi siamo il paese leader da questo punto di vista e questo ci permette naturalmente di crescere. Il mondo della cooperazione, con i dati che sono stati forniti, cresce più del mondo privato, ma questo perché naturalmente siamo detentori del grosso del Made in Italy a denominazione d'origine. Dicevamo prima, gran parte di questi prodotti poi devono essere trasportati. Voi avete avviato anche qualche tempo fa una campagna denominata Chilometro Illimitato, anche per, come dire, spiegare che gran parte di questi prodotti a denominazione di origine, se vogliamo che arrivino sui mercati di tutto il mondo, devono essere movimentati. Quali sono le difficoltà legate alla logistica del prodotto agroalimentare? Ma oggi siamo fortemente penalizzati perché per quello che riguarda il trasporto di prodotti in Italia e in Europa sono quasi per il 90% su gomma. Quando andiamo quindi all'estero, l'unico nostro mezzo di trasporto rimane via mare. Quindi questo naturalmente ci penalizza molto, soprattutto per i prodotti che hanno un tempo di freschezza che non è così lunga da potersi permettere tempi molto lunghi di trasporto. Ecco perché noi stiamo fortemente ragionando su trovare sistemi di trasporto alternativi che ci possano agevolare soprattutto per uscire fuori dal continente. Quindi suppongo anche l'utilizzo dell'aereo, che di solito viene riservato solo a merci, come dire, un po' più di valore. Sì, sostanzialmente quello, perché oggi diventa sempre più necessario organizzare trasporti veloci. Su questo naturalmente ci sono costi che non riusciamo neanche in questo momento a sostenere, ma soprattutto c'è una logistica non ben organizzata per affrontare questo tipo di trasporto. Ecco perché alcune nostre derrate alimentari, soprattutto legate al fresco, sono limitate, per cui riusciamo solo a posizionarci a livello europeo, non siamo riusciti ancora a posizionarci a livello internazionale, lo facciamo soltanto con frutta a lunga conservazione, non possiamo farlo con frutta che non ha questa possibilità di conservazione. Certo, nonostante questo, come dicevamo, il Made in Italy, il consumo dell'agroalimentare Made in Italy aumenta anno per anno. Quali sono i prodotti che tirano, tra virgolette, di più in Europa e nel resto del mondo? Ma sicuramente siamo leader nell'export di vino, perché ormai siamo leader mondiali sia come produzione che come esportazione, ma ci sono aspetti che si legano a tutto quello che riguarda i formaggi. Oggi il settore dei formaggi è... sta crescendo molto nell'esportazione, stanno crescendo volumi e valori e questo ci aiuta fortemente. Stiamo incrementando tutti quelli che sono i prodotti legati alla trasformazione come conserve e qui aggiungo anche pomodoro e tutti quelli che sono trasformati agroalimentari. Certamente tutto questo non subisce quella difficoltà della logistica, ma questo non è sufficiente per poter soddisfare anche tutto l'altro agroalimentare che abbiamo a disposizione. Ecco, quindi quali saranno le strategie future da mettere in campo per migliorare sia qualitativamente sia quantitativamente le esportazioni, ma anche le produzioni agroalimentari italiane? Ma certamente c'è bisogno di un piano strategico paese, c'è bisogno di un impegno politico forte, perché i risultati dell'export sono quelli che sono stati appena dati, quindi c'è una crescita, l'obiettivo 50 miliardi di euro è un obiettivo raggiungibile, naturalmente su questo bisogna adesso pensare a progetti che siano legati a infrastrutture capaci poi di poter creare delle piattaforme logistiche per le esportazioni che possono raggiungere paesi lontani. Certo, ecco, qualche mese fa Expo a Milano ha acceso un po' i riflettori sulle produzioni agroalimentari, non solo italiane ma quelle di tutto il mondo. Ecco, è cambiato qualcosa dopo Expo rispetto anche all'atteggiamento legato ai prodotti agroalimentari? Ma certamente è stata una vetrina importante, una vetrina che ha messo alla luce quelle che sono le nostre produzioni, la nostra capacità di produrre e soprattutto la nostra qualità, che non è facile trovare da tutte le parti, perché la nostra qualità è una qualità che viene certificata da un marchio europeo, dalla denominazione di origine, e su questo naturalmente anche l'Europa sta facendo una grossa politica nei rapporti bilaterali con gli altri paesi, perché quando si va a trattare con altri paesi al più opposto si mettono i prodotti che possono dare caratteristiche fortemente diverse, quindi al primo posto l'Europa posiziona proprio i prodotti a denominazione d'origine. Se consideriamo che noi come Paese Italia siamo il primo paese produttore di questi prodotti a marchio, naturalmente la vetrina Expo e quello che sta facendo l'Europa ci agevola notevolmente. Ecco, rispetto all'Europa invece qual è l'atteggiamento dell'Italia? Una volta l'Europa era vista come una sorta di matrigna rispetto ai prodotti agroalimentari, visto che ci ha costretto per anni ad abbandonare alcune nostre produzioni importanti. Oggi che cosa succede? Ma certamente c'è un'apertura rispetto al passato. Se noi immaginiamo che fino a qualche anno fa parlare di origine e portarlo ai tavoli europei era una cosa impossibile, oggi ci sono delle aperture, se ancora limitate, ma c'è un'apertura, significa che c'è una presa di coscienza anche dalla politica europea che probabilmente quello che poteva sembrare un tabù per l'Europa, mettere in etichetta l'origine, oggi può diventare realtà e questo naturalmente ci agevola fortemente. Se al nostro prodotto aggiungiamo l'origine, certamente abbiamo tante altre opportunità per posizionare i nostri prodotti di qualità in tutto il mondo. Bene, termina qui anche questa puntata di Container. Prima di lasciarci vi ricordo che questa è una produzione realizzata in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori. E vi ricordo anche il nostro indirizzo email, che è container@radio24.it. La nostra trasmissione ritorna come al solito sabato alle 13:15 circa. Un saluto a tutti da Massimo De Donato.